Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Oggi si parte dall'accordo, accordo sul gas firmato ieri sera, tarda sera a Bruxelles, dopo un ultimo round di 48 ore molto intense di trattative. Qual era la questione? Perché è così importante? Da una parte perché questo scongiura il rischio di rimanere a secco di gas e comunque al freddo nell'inverno ormai imminente. Perché nel mezzo di questo accordo tra Russia e Europa c'è l'Ucraina e questo infatti viene considerato unanimemente oggi dai quotidiani dell'Est Europa come il vero primo passo di disgelo, diciamo, tra i due paesi, dove rimangono un conflitto, grandi tensioni, ma insomma un accordo sul gas è davvero un segnale positivo. Possiamo sentire il commissario Oettinger nel suo annuncio. Der erste Schritt besteht darin, dass die Ukraine Ecco, Naftogas ucraine, senza essere fluenti come nel mio caso in tedesco, si capisce però subito quali sono i nodi che appunto il commissario Oettinger solleva. C'è un accordo di pagamento, Gazprom, quindi di fatto la Russia, ha un credito di oltre 3 miliardi di euro con l'Ucraina che non voleva evidentemente perdere. Il punto di chiusura, come si immaginava, è stato trovato con il fatto che l'Unione Europea sosterrà con oltre 1,5 miliardi di euro la bolletta dell'Ucraina, che come abbiamo detto è anche la nostra stessa bolletta e la possibilità dunque di mantenere dei canali aperti. Oettinger ha detto che Kiev potrà attingere alle proprie entrate, con ogni probabilità le proprie entrate saranno costruite da questo pacchetto di aiuti di cui dicevo l'Unione Europea ha già versato 1,6 miliardi di euro, insomma una fetta importante. Una buona notizia dunque, mentre il nostro secondo tema di giornata, complicato, molto importante, ma decisamente su un'altra rotta, e mi riferisco all'accordo TTIP. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, importantissimo accordo commerciale in trattativa, in questo caso parliamo di rapporti tra Stati Uniti ed Europa. È un accordo che è stato sollevato, ipotizzato circa 2 anni fa, si pensava, o meglio Obama e molti politici europei speravano di chiuderlo entro il 2015, oggi la cosa sembra un po' più complicata, in particolare per una clausola, ancora un acronimo, mi scuso, si chiama ISDS, è quella clausola che sostanzialmente gli americani vogliono imporre per tutelare gli investimenti delle loro multinazionali. Sentiamo il servizio di Valeria De Rosa. Il trattato commerciale transatlantico rischia di diventare un caso politico diplomatico e non tanto, o almeno non solo, perché in ballo ci sono questioni di barriere tariffarie, di salute, di alimenti geneticamente modificati, di liberalizzazione di appalti, di ambiente, quanto perché sul tavolo c'è la sopravvivenza o meno di una clausola, la clausola di risoluzione delle controversie tra investitori e stati. Si tratta di uno strumento presente in molti trattati di libero scambio. Prevede un tribunale commerciale ad hoc per proteggere gli investimenti delle imprese straniere da ingiuste espropriazioni o da un trattamento discriminatorio del paese di accoglienza. Più di una volta ha permesso alle multinazionali di strappare accordi economici molto convenienti e di modificare a proprio vantaggio politiche nazionali. Gli americani non concepiscono nemmeno l'idea di potervi rinunciare. Molti eurodeputati ritengono invece che non ce ne sia alcun bisogno perché la giurisdizione europea assicura piena trasparenza. Così il tedesco Reinhard Bütikofer, esponente dei Verdi, che vede il pericolo di assicurare privilegi alle multinazionali. Ma le istituzioni europee negano che questo potrà mai accadere. Nell'eventuale accordo che la Commissione sottoscriverà non ci sarà mai alcuna limitazione per le parti nell'adire le corti nazionali. Queste le parole di Jean-Claude Juncker, che ha anche promesso che mai nessuna corte segreta potrà avere l'ultima parola in una disputa internazionale. Bene le promesse, sostengono gli europarlamentari, ma poi servono i fatti. Al momento la discussione sulla clausola è ferma. Alcuni stati come la Germania si oppongono senza mezze misure. Altri invece, timorosi di perdere investimenti statunitensi, hanno inviato una lettera alla Commissione chiedendo di non escluderla dal trattato. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco, come avete capito è una questione politica di primaria importanza per i volumi in gioco. La costituzione di una zona unica commerciale tra le due sponde dell'Atlantico farebbe di fatto il primo mercato commerciale del mondo di questa parte, appunto, Unione USA. Dall'altra parte c'è una preoccupazione ben fondata che proprio i tedeschi sollevano con forza. Un'ultima nota: siamo in un cambio di commissione, domani si cambia letteralmente, oggi finisce il periodo della commissione Barroso, che era molto, diciamo, favorevole a questo processo. Con Juncker si entra in un campo nuovo, staremo a vedere, noi cercheremo di tenervi aggiornati. È tutto, buon fine settimana. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.